prodotto da Soundfly e distribuito da Self, che racconta la vita e i sentimenti condivisi, inenarrabili dolori, bellezza e verità e l'incredibile potere terapeutico dell'amore e della musica. E il suo nuovo disco si intitola Terre del Finimondo. Aspetta, che c'è anche scritto: un incontro tra Napoli e Rio, un viaggio nei mondi della musica brasiliana con testi in napoletano e in portoghese, brani inediti della popolare artista e rivitazioni di João Bosco, Jacob da Bandolim e Chico Buarque de Holanda. Terre del Finimondo, appunto, è il nuovo album di Brunella Selo. E adesso ci ascoltiamo qualcosa che ha a che fare col Vesuvio, ma come al solito non mi ricordo il titolo, ve lo dico dopo. Passante restrega fuio pa coppa saiu scina vescala trova riparo sai a doiai si vogam pan nascus voglio sta sola e solo non ci stai mai. Areda te l'ombre tutte carute e tutte guerre che fatta e tutte parole che gente a Luca puro quando si studono in luce s'avessa sta zitta e vota manca l'aria e sotto scarpa bolle ne preta pronta brucia e a brucia nei pensieri. Molto estiva questa Vesuviagem o Vesuviachem, chi lo sa. di Brunella Selo, appunto, da domani su www.coxospaziale.blogspot.com troverete tutti i link necessari per andare a scoprire di più di questo nuovo album, appunto, Le Terre del Finimondo. Ma ritorniamo alla nostra inviata con, come non mi ricordo neanche più come si chiama la rubrica, Fuori Porta. Sentiamola. Fuori Porta. Eccoci qui per la rubrica Fuori Porta, questa volta siamo a Milano, anche se siamo a Milano in un modo un po' particolare, perché il progetto di cui ci parlerà adesso Bianca Trevisan è un progetto che si propone di portare in realtà l'arte dentro proprio ad ogni casa, quindi siamo fuori porta, ma siamo fuori dalla porta di Bologna, ma siamo dentro alla porta di casa. E siamo qui con Bianca Trevisan, curatrice della Galleria Milano, che insegna storia della fotografia alla Cattolica di Brescia e allo IED, ha conseguito un dottorato in storia dell'arte contemporanea, si interessa di questioni legate al femminismo, all'arte politicamente impegnata, e sentiamo direttamente Bianca, che salutiamo, cosa ci può dire intanto di Galleria Milano, che forse gli ascoltatori di Coxo Spaziale non conoscono. Ciao Chiara, Stefano W e Fedra e a tutti gli ascoltatori. Prima di tutto vi ringrazio di avermi invitata, mi fa molto piacere. Sì, guarda, la Galleria Milano è una realtà storica di Milano, è stata fondata nel 1964 dai fratelli Somaré, che erano due pittori e un altro manipolo d'artisti. Però nel 65 è subito subentrata Carla Pellegrini, che è diventata la direttrice, che poi è stata la storica gallerista fino all'anno scorso, quando è scomparsa. L'anno scorso ha preso le redini Nicola Pellegrini, artista, figlio di Carla, e adesso si sta dedicando anche all'attività espositiva altrui, e con anche Tony Merola, che ha lavorato con Carla per più di 20 anni, e diciamo che Tony è la vera memoria storica della Galleria Milano. Quindi abbiamo iniziato questa avventura insieme, anch'io lavoravo già con Carla, e stiamo portando avanti questa storia che è davvero complessa e ricchissima. Quindi abbiamo un grosso archivio, la galleria ha portato a Milano movimenti importanti proprio quando accadevano, come ad esempio la pop art inglese o l'arte della West Coast americana, quindi stiamo parlando proprio degli anni 60, quando iniziavano ad affermarsi questi nuovi linguaggi. Allora, grazie Bianca, grazie Nicola, grazie Tony, e grazie alla memoria storica che addirittura, cari ascoltatori, vi portiamo qui in radio, e che è fondamentale per muoverci in un clima di orizzontalità senza perdere il bandolo della matassa. Ma a proposito quindi di memoria storica e di autoprogettazione, che è la mostra di cui, mostra se possiamo chiamarla così, ma poi ci dirai meglio tu, autoprogettazione dunque nasce in qualche modo in legame a questa memoria storica. Dici di che cosa si tratta e che cosa ci porta a ricordare? Esattamente, allora guarda, la storia è questa. A marzo, il 23 marzo, dovevamo inaugurare una mostra di Enzo Mari intitolata Falce e Martello, che era un remake di una mostra già fatta proprio in Galleria Milano nel 1973, quindi una ricostruzione storica con riperimento di materiali d'archivio, che ci ha impegnato per molti mesi. Abbiamo anche realizzato un libro edito da Humboldt Edizioni, però come tutti sapete non è stato possibile farlo perché c'è stato il Covid, il lockdown, eccetera eccetera, quindi ci siamo trovati a inizio marzo a dover chiudere improvvisamente la galleria, anche noi increduli, senza sapere che cosa aspettarci, che cosa fare, rimandare le mostre, annullare le mostre. E quindi dalle nostre case, Nicola, Tony e io ci siamo chiesti come possiamo portare avanti l'attività della galleria, anche perché il nostro è uno spazio non solo commerciale ma anche culturale. quindi ci è venuto in mente di partire da un'altra mostra di Enzo Mari, fatta alla Galleria Milano nel 1974, ovvero Proposta per un'autoprogettazione, dove lui sostanzialmente forniva delle istruzioni per realizzare mobili a casa, quindi in un contesto di totale autarchia. Riprendendo quest'idea, abbiamo cercato di traslarla nel 2020 del Covid, chiedendo a tutta una serie di artisti che stimiamo particolarmente di fornirci le loro istruzioni per realizzare delle opere da loro ideate a casa. Quindi creando proprio un dialogo anche relazionale tra l'artista e il pubblico. Quindi abbiamo fondato un sito, anche perché chiaramente non poteva essere fatto in presenza, e abbiamo sfruttato anche i social, e devo dire che in questo caso abbiamo davvero visto tutta la potenzialità della comunicazione online in un momento in cui non si poteva fare altro, chiaramente. E sono tantissimi gli artisti che avete effettivamente coinvolto, oltre 100, quindi sono tantissimi gli artisti che stimate particolarmente, e questo ci piace. E oltretutto vediamo che nell'elenco c'è anche Giancarlo Norese, che è uno dei nostri beniamini, e oltretutto lui ha fatto, a proposito di Enzo Mari e Falce Martello, un'opera che si chiama Hammer with No Seal, quindi martello senza falce, ci sono anche tanti altri. Giancarlo Norese lo conosciamo già, magari hai voglia di raccontarci qualche progetto in particolare che vi ha colpito, che vi sembra particolarmente in linea con quelle che erano le prerogative della vostra proposta? Una premessa assolutamente da fare è che il presupposto a queste istruzioni era l'accessibilità, quindi abbiamo detto a tutti gli artisti: accessibilità di materiali e accessibilità realizzativa. Perché? Perché le persone a casa potessero veramente realizzare queste opere con ciò che avevano già in casa, perché come sappiamo durante il lockdown non era assolutamente facile andare a fare la spesa. Accessibilità realizzativa proprio per rifuggire virtuosismi che sarebbero assolutamente lontani dal principio di autoprogettazione, che è la coralità tra artista e pubblico a casa, quindi trascendendo assolutamente un discorso autoriale e anche di proprietà dell'opera. Quindi, detto questo, è davvero difficile scegliere dei lavori tra gli oltre 100 che sono stati presentati e pubblicati, perché sono tutti assolutamente attinenti, tutti gli artisti sono riusciti a cogliere il vero spirito di autoprogettazione. Allora, mi nominavi Giancarlo Norese, che gli ascoltatori già conoscono. Una cosa divertente è stato vedere che ci sono stati dei richiami involontari tra le proposte di diversi artisti. Quindi Giancarlo Norese ha proposto un lavoro con un bicchiere, semplicissimo e quanto mai efficace. E anche Giovanni Oberti, artista milanese, e Martina Della Valle. Quindi vediamo che il bicchiere è tornato in opere totalmente diverse, e lascio agli ascoltatori andare a vedere di che cosa si tratta sul nostro sito, non voglio spoilerare troppo. La stessa cosa è accaduta ad esempio invece con la mappa, quindi abbiamo visto che Ugo Lucio La Pietra, Luca Vitone e Riccardo Arena hanno proposto dei lavori che presupponevano appunto la realizzazione di mappe, oppure alcuni hanno proposto lavori più collagistici come William Kentridge e Monica Bonvicini in chiave in direzioni comunque totalmente diverse, quindi difficile scegliere. Invito davvero gli ascoltatori ad andare sul nostro sito e sbizzarrirsi nella scoperta. Loco, loco, Rari. Mad move, I suppose so, I suppose. Follow me now, Rari. You see that girl up on the corner, somebody tell her some call her. Back on, I know you have a man, but me see it now your eyes say one talk. Sometime life boring and you feel add a little drama. Sometime life worrying and if you add a little drama. You can follow me to my room if you want to. If you want to. You can follow me to my room if you want to. Follow me no. Say hala ya, hala me no. Follow me no. I go make you hala me no. Long time me want to know that girl, she sexy. Plus a man know me already, that are the best thing. Disguise the thing and call one another bestie. Eat mad but I know like me and him a bread. You take too long to reach me hard, you forget wings. But it's the next thing, it's the next thing. When you're rich, come and let me did that with a hour for 10 minutes. Me buy you anything you want, be a be where you want. Some Gucci Louis Sache, Gucci Louis Sache. For your body, back one. Physical, she say you not see me calm, you not see me busy cool down, baby you not hot. Me buy you anything you want, be a be where you want, be a be where yeah. You want. You see that girl up on the corner, somebody tell her say me call her. Tell her, say me. I know you have a man, but me see it now your eyes say want to. Sometime life boring and you fi add a little drama. Add a little drama. Sometime life boring and you fi add a little drama. You can follow me to my room if you want to. If you want to. You can follow me to my room if you want to. Follow me. Follow me. Follow me no. Say hala ya, hala me. Hala me, I meet them boy, they wanna be them, I wanna be. Put your on the team, honestly, Hennessy. Lick a weed, I got have your lean. Hala make you scream, no apology. No apology. Your man a pray now. Can you bend your back, baby, just spin around. Body hotter than a coffee and a cappuccino. She a macchino, listen, man a pray. Me buy you anything you want, be a be where you want. Gucci Louis Sache, Gucci Louis Sache. Be your body. Me buy you anything you want, be a be where you want, be a be where you want. Me buy you anything you want, be a be where you want, be a be where you want. You see that girl up on the corner, somebody tell her say me call her. Tell her, boss, say me call. I know you have a man, but me see it now your eyes say want to. Sometime life boring and you fi add a little drama. Add a little bit of drama. Sometime life boring and you fi add a little rara. Devo dire che a me il lavoro di Monica Bonvicini piace molto, questo tappetone di ritagli e quasi quasi me lo faccio. Tra l'altro avere un Bonvicini a casa non è mica roba da poco. Ti voglio fare due ultime domande un pochino più spinose, perché sai, a noi di Coxo Spaziale piace molto buttarci nella mischia così disarmati a mani nude e quindi te le propongo. La prima riguarda la questione del interazione, cioè questo progetto prevede un'interazione con il cosiddetto pubblico, ma in realtà vedo che ci sono magari anche interazioni tra gli artisti, ecco, diventano forse prevalenti, perché il dubbio a volte è quello che il mondo in cui ci muoviamo sia un po' un circuito chiuso dove parliamo tra di noi e non si riesce, come dire, a sfondare questa barriera del suono che ci separa da un pubblico che forse è solo ipotetico. E l'altra questione spinosa, poi vedrai tu se rispondere o avvalerti della facoltà di non rispondere, quella della, diciamo, del rapporto con il mercato. Cioè Nicola Pellegrini molto intelligentemente ha anche rilasciato un'intervista a Il Manifesto dicendo che sarebbe un po' tempo di cambiare il sistema in cui noi siamo immersi, che mostra segni di palese crisi. Però il mercato, oggettivamente il mercato dell'arte, è ancora un mercato un po' elitario. Allora non si rischia magari con questo tipo di lavori che puntano molto sull'orizzontalità, ma all'interno di una galleria commerciale, che il lavoro di tanti finisca poi come al solito per arricchire solo pochi? Chiara, due domande spinose ma sicuramente molto intelligenti, quindi tenterò di risponderti con vero piacere. Il primo punto, quello sull'interazione tra gli artisti e il pubblico, è proprio centrale in autoprogettazione, seguendo anche la logica della reciprocità del dono tra l'artista, che appunto dona le sue istruzioni, e il pubblico che si cimenta nella loro realizzazione. Siamo stati fortunati perché abbiamo ricevuto davvero tanta risposta da parte del pubblico, che ci ha inviato le proprie realizzazioni via mail, via Instagram, tramite social, e quindi ci sembra di avere davvero centrato questo punto che per noi era prioritario. D'altra parte abbiamo cercato davvero di rispondere ad un'esigenza contingente reale, cioè quella di fare in qualche modo compagnia alle persone a casa attraverso qualcosa di manuale, no? Quindi questo ritorno alla manualità, questo ritorno al saper fare, che è anche terapeutico in un momento in cui non si poteva uscire di casa. Infatti abbiamo subito specificato nella presentazione del progetto che l'autoprogettazione è volta a autoriprogettare la nostra esistenza come curatori artisti, ma soprattutto come persone a casa, ed eravamo tutti le persone a casa. Quindi arrivo alla seconda domanda, ovvero quella sul rapporto con il mercato, che tende ad essere sempre elitario. Invece noi abbiamo cercato di andare invece in direzione di una esplicita orizzontalità, come ha detto anche Nicola nella sua intervista per il Manifesto. E quindi sì, qui non c'è più tanto la logica del possesso, anzi non c'è proprio la logica del possesso. Abbiamo cercato di andare oltre, tutto è nella realizzazione pratica dell'opera e ai benefici che può portare questo processo a livello esistenziale. Quindi sì, l'approccio è assolutamente fuori dalle logiche di mercato. Certo, noi, come dicevi anche tu, siamo una galleria, quindi abbiamo un'anima commerciale, però questo progetto, l'autoprogettazione, non ha finalità commerciali. E allora veramente speriamo che questa vostra passione, che poi è anche la nostra, dilaghi e che rompa ogni argine, travolgendo l'anima del commercio e lasciando solo l'anima. Quindi magari adesso potrei proporre a Giancarlo Norese di fare commerce with soul o soul with no commerce. Coxo spaziale! Vediamo che cosa ne viene fuori. E intanto grazie Bianca, grazie Tony, grazie Nicola e grazie a tutti gli artisti di autoprogettazione. Se vuoi ricordarci come possono i nostri ascoltatori andare a saperne di più, e noi ti salutiamo. Esatto, noi continueremo a cercare di rompere gli argini anche attraverso autoprogettazione, che sta continuando a crescere. Infatti abbiamo lanciato da 2 settimane un takeover dove affidiamo il nostro profilo Instagram, che è autoprogettazione, facilissimo da ricordare, ad uno dei nostri artisti. Quindi affidiamo totalmente il profilo e loro si cimentano non solo nella presentazione dei propri progetti, ma anche nella realizzazione dei progetti altrui e ad una più profonda interazione con il pubblico. Quindi vediamo come andrà questo takeover. Noi per ora siamo molto soddisfatti anche di questo nuovo sviluppo. Ci trovate sul web come www.autoprogettazione.com, lì potete vedere tutti i progetti, tutte le istruzioni. Abbiamo anche una pagina Instagram che vi ho appena citato, Facebook e Twitter, sempre con il nome di autoprogettazione, quindi ci potete trovare tutti facilmente. Poi trovate anche il nostro indirizzo mail se ci voleste scrivere o mandare delle realizzazioni, delle istruzioni. Quindi grazie ancora Chiara, Stefano e Fedra, e grazie a tutti gli ascoltatori. Vi auguro un buonissimo proseguimento e di autoriprogettare le vostre esistenze attraverso l'arte. Ciao!